Il punto di Stefano Folli. E così sembra proprio che il congresso del PD si sia già svolto e sia anche già finito. Da una festa all'altra, da un bagno di folla all'altro, Matteo Renzi è già stato incoronato nuovo leader del PD. Ed è partita la corsa per aggregarsi al vincitore, prima che sul carro i posti siano esauriti. Franceschini è stato il più lesto, ma altri seguiranno, non c'è dubbio. Un partito pieno di frustrazioni come il PD vede finalmente la possibilità di vincere le elezioni, il resto non conta. Neanche i programmi, finora molto vaghi a dir poco, ma ci sarà tempo per parlarne, nella politica moderna non sono mai una priorità. Quello che conta invece sarà il rapporto con il governo Letta. Finora per sopravvivere il Premier ha avuto bisogno di un Berlusconi accomodante e di un PD attento al volere di Napolitano. La prima condizione la verificheremo fra pochi giorni, quando verrà al pettine il nodo della decadenza parlamentare del capo del PDL, e la seconda è tutta da decifrare appena la leadership di Renzi sarà ufficiale.